Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Sono ripresi i respingimenti dei migranti irregolari alla polizia slovena su direttiva del Viminale e prefetti, una pratica che era stata al centro di un contenzioso giudiziario promosso da associazioni che tutelano i richiedenti asilo. Sottoscritto a Monza l'accordo che istituzionalizza la conferenza delle regioni, per il presidente Fedriga si rafforza la funzione di raccordo e interlocuzione con governo e Parlamento. In Varsila riprendono gli incontri sull'organizzazione del lavoro che segnano la ripresa dell'attività in fabbrica dopo mesi di dura contrapposizione. Nel 2022 meno di un terzo delle ore di cassa integrazione autorizzate sono state effettivamente utilizzate, lo sostiene una ricerca della CISL. Domani si potrà sciare ma solo nella parte alta del comprensorio di Sella Nevea, la poca neve impedisce la battitura delle piste negli altri poli. Le criticità di Gorizia in vista dell'appuntamento Go 2025. Mancano posti letto, ma è possibile trovare una soluzione con le strutture territoriali isontine e regionali. Partito un altro convoglio di aiuti diretto in Ucraina, 31.000 litri di liquido che serve a spegnere gli incendi causati dai bombardamenti. È arrivata nella notte a Trieste la grande statua a forma di tallero che sarà collocata in piazza Ponte Rosso. Per l'allestimento ci vorrà un mese di lavoro. Basket a Cividale va in scena il derby friulano della 2, Gesteco contro Apo Old Wild West, palasport esaurito da alcuni giorni. Pallanuoto, turno infrasettimanale del massimo campionato, Trieste ospita Bogliasco. 7:19 minuti e 40 secondi. Buona giornata da Maria Spezia e Paolo Roncoletto. Anzitutto diamo uno sguardo alle condizioni del tempo di oggi. Il cielo si presenta poco nuvoloso su pianura e costa, qualche nube in più sui monti. Le temperature registrate alle 7. Abbiamo 8 gradi a Trieste con vento da est levante a 20 km orari. A Udine 2 gradi e 7 decimi, 4 gradi e mezzo a Gorizia, 0 gradi a Pordenone, temperatura sotto zero a Tolmezzo, 2 decimi di grado sotto lo zero, meno 1 grado e mezzo a Tarvisio e a Forni di Sopra, a Sappada meno 6 gradi, sullo Zoncolan meno 2 gradi, sull'Ussari meno 4 gradi. Torniamo sulla costa, 7 gradi e mezzo a Lignano e Grado. Le previsioni dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, cielo in prevalenza poco nuvoloso su tutta la regione, anche sereno in montagna, soffierà bora moderata sulla costa. Le riammissioni informali in Slovenia erano state argomento di un contenzioso giudiziario perché contestate da alcune associazioni che operano a favore dei migranti. Una direttiva del Viminale invita ai prefetti a ripristinarle. Tornano i respingimenti di migranti in Slovenia. Porta la firma del capo di gabinetto del Ministero dell'Interno, Maria Teresa Sempreviva, la direttiva che rilancia le riammissioni informali. Il documento è stato inviato qualche giorno fa ai prefetti di Trieste, Udine, Gorizia e Bolzano, al capo della Polizia e al capo Dipartimento Libertà Civili. A quest'ultimo viene chiesto ogni necessario intervento per favorire il trasferimento dei richiedenti asilo in altre regioni. L'esistenza della direttiva è stata annunciata dal sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco in visita a Trieste, dove è incontrato il sindaco Roberto Di Piazza. Per le scelte timide di precedenti governi è stata adottata una linea molto morbida rispetto all'utilizzo di questo meccanismo che invece consente all'Italia di poter riconsegnare chi non ha titolo per stare in Italia ai paesi, in particolar modo alla Slovenia. Nel 2021 i respingimenti erano stati sospesi di fatto senza un provvedimento che ne decretasse l'interruzione. Le riammissioni avvengono sulla base del principio del primo paese d'ingresso sancito dal Trattato di Dublino e sono regolate da accordi stipulati negli anni 90 con Slovenia e Croazia. Le associazioni che si battono per i diritti dei migranti, come l'ASGI, sostengono che sono illegittime perché non avvengono a seguito di un formale provvedimento e violano così il diritto di asilo. I respingimenti sono già ricominciati nei giorni scorsi, ma da quanto abbiamo appreso, la polizia slovena ha restituito a quella italiana alcuni dei migranti riconsegnati per mancanza di prove della loro effettiva provenienza dalla Slovenia. Il sindacato di polizia SAP con Lorenzo Tamaro accoglie positivamente la notizia, ma si augura procedure di riammissione più snelle, maggiori risorse e strutture più adeguate. Non si sono mai visti così tanti ingressi di migranti in passato, molti solo in transito, specie nei mesi freddi. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Nel corso della prima edizione dell'Italia delle Regioni è stato rinnovato l'accordo che sancì la creazione più di 40 anni fa della Conferenza delle Regioni. L'intesa siglata ieri dal presidente della Conferenza Massimiliano Fedriga alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella istituzionalizza il ruolo e le funzioni della Conferenza, riconoscendone il compito di interlocutore con governo, Parlamento e organismi comunitari. La Conferenza rafforza così la funzione di raccordo fra regioni e composizione delle diverse istanze regionali. Un ulteriore passaggio sarà l'approvazione di leggi da parte dei singoli consigli regionali e Fedriga ha ricordato che le conferenze dovranno avere rilievo costituzionale. In seguito all'accordo siglato a Roma tra Ministero per le Imprese, Parti Sociali e Azienda, la sede produttiva della Varsila di Bagnoli della Rosandra riprendono oggi gli incontri di rappresentanza sindacale unitaria di solito programmati per il giovedì e questa settimana anticipato da oggi in occasione della festività dell'Immacolata. Saranno in discussione i turni di lavoro, gli arrivi di materiale e le lavorazioni. Sarà presente anche il presidente amministratore delegato Michele Cafagna, che illustrerà i presenti il piano che la multinazionale ha definito per lo stabilimento triestino, che prevede il proseguimento della produzione fino a settembre 2023. Nel pomeriggio Cafagna incontrerà anche i lavoratori. Intanto era programmata per la notte scorsa la partenza dallo stabilimento degli ultimi due motori per Fincantieri, trasferiti con il millepiedi nella notte tra lunedì e martedì, che dovrebbero essere imbarcati sulla nave Deo Volente, entrata ieri nel canale navigabile. La situazione sta tornando alla normalità, dicono i sindacati. La CISL propone di collegare gli ammortizzatori sociali alle politiche attive del lavoro, in particolare alla formazione. La proposta è stata formulata a Pordenone nel corso di un convegno. Il sindacato chiede anche un potenziamento di centri regionali per l'impiego. I numeri sulla cassa integrazione in Friuli Venezia Giulia danno qualche indicazione confortante. È vero che dal 2019 ad oggi le ore sono quasi triplicate, da 4 a 11 milioni, ma la percentuale di effettivo utilizzo dell'ammortizzatore sociale rispetto alle ore richieste è piuttosto bassa. Da gennaio ad agosto di quest'anno si attesta sul 27%. Sono 6 le aziende di rilievo nazionale e internazionale che proporranno decine di opportunità lavorative per laureandi e laureati nel corso dell'iniziativa Il mercoledì del placement dell'Università di Udine. Nel corso dell'iniziativa sono previsti brevi colloqui tra candidati e imprese. Negli ultimi 12 mesi l'Ateneo ha attirato una cinquantina di aziende che hanno finora proposto circa 600 offerte di lavoro. Appuntamento a Palazzo di Toppo-Wasserman in via Gemona dalle 14. Nonostante i sostegni di Stato e regionali, il caro energia continua a farsi sentire dalle aziende ed è sempre più difficile ottenere nuovi contratti. Almeno per un'impresa su 6, i rincari energetici stanno determinando una crisi di liquidità che rischia di metterla fuori mercato, a dirlo un'indagine nazionale di Confartigianato e Union Camere che trova riscontro anche in regione. Le aziende che stanno segnalando più problemi sul fronte del credito, rileva ancora la ricerca, sono le stesse che stanno avendo i maggiori contraccolpi dall'aumento incontrollato dei costi energetici, per lo più le realtà a forte consumo del manifatturiero. Una situazione drammatica, ribadisce il presidente di Confartigianato Friuli Venezia Giulia, Tilatti. Così anche per le piccole e medie imprese, molte sono finite per questo nel mercato di salvaguardia per l'energia elettrica e di default per il gas, con costi e cauzioni ancora più alti, segnala il presidente di Confapi Friuli Venezia Giulia, Paniccia, che evidenzia anche il problema degli approvvigionamenti. Il mercato è bloccato per la crescita esponenziale dei prezzi e i grandi produttori, fornitori, non accettano nuova clientela, sempre più difficile inoltre interloquire con loro, afferma Paniccia. Intanto le imprese con forti consumi hanno già ridotto l'attività. Utile ma non risolutivo, secondo le associazioni di categoria, l'intervento dello Stato dei ristori sotto forma di credito d'imposta. I 40 milioni di contributi a fondo perduto messi in campo dalla Regione hanno raccolto 13.000 domande. Non sono tante ma nemmeno poche, anche a fronte delle molte aziende avvantaggiate dal blocco dei contratti sino a fine anno, commenta l'assessore alle attività produttive Bini. Una nuova tranche di ristori non ci sarà. Al suo posto entro febbraio un bando per installare impianti fotovoltaici da 55 milioni di euro, in parte finanziato dall'Unione Europea. L'effetto annuncio sulle imprese intanto ha già raccolto grande interesse, evidenziano ancora Confartigianato e Confapi, che richiamano però la necessità di protocolli per velocizzare l'iter burocratico e rilanciano la richiesta per dare priorità alla questione energetica. Bini preannuncia un nuovo confronto a gennaio. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Cronaca giudiziaria, un 47enne di Trieste è stato arrestato su ordinanza della Procura di Livorno con l'accusa di estorsione pluriaggravata. La vicenda risale a marzo di quest'anno. L'uomo aveva tentato di estorcere 150.000 euro in bitcoin a un'azienda vitivinicola livornese. Se non avesse ricevuto il denaro richiesto, i vigneti sarebbero stati dati alle fiamme. Domani si potrà sciare in pista solo nella parte alta del comprensorio di Sella Nevea. La neve c'è, ma non è sufficiente per la battitura completa dei tracciati in vista dell'apertura ufficiale della stagione prevista per la festività dell'Immacolata. La voglia di sciare c'è, la neve è però latita. A causa delle condizioni meteo, da giovedì si potrà sciare solo nel polo di Sella Nevea a prezzi scontati. Negli altri 5 comprensori, impianti di risalita accessibili ai soli pedoni. Aperte invece alcune piste di fondo a Sappada, Forni Voltri e sullo Zoncolan. Conclusa la prevendita degli ski pass, intanto, le prime stime ne sono stati emessi oltre 9.000 rispetto ai 6.500 della scorsa stagione. Sergio Emidio Bini, assessore alle attività produttive e al turismo. A confermare quanto positiva è stata la nostra campagna di mantenimento dei prezzi, le più bassi, lo torno a sottolineare, l'intero arco alpino. Nonostante le incognite legate alle bollette, tutti gli alberghi contattati in ciascun polo sciistico manifestano l'intenzione di rimanere aperti per tutta la stagione fino a primavera. Anche con qualche sacrificio, il caro energia impone per esempio a chi voleva realizzare un centro wellness all'aperto di rimandare l'investimento all'anno prossimo. Più in difficoltà infatti sono le grandi strutture dotate di piscine o spa. Una di queste ha deciso di ritardare l'apertura di una settimana. Non ci possiamo più permettere le mezze capienze, ci dice il gestore. In quest'ottica, da Sappada allo Zoncolan, non mancano alberghi che si mettono d'accordo, apre uno invece dell'altro in una determinata settimana, così da ottimizzare le spese e riempire laddove si accoglie. A Forni di Sopra, la metà degli alberghi è collegata alla centrale di biomassa comunale e spunta condizioni vantaggiose per la fornitura di calore. Generalizzate paiono le difficoltà nel reperimento personale, soprattutto nella pulizia delle camere. Non si trovano inoltre camerieri d'esperienza e così alcuni hotel hanno riconvertito pranzo e cena in formula buffet. A Piancavallo, infine, segnalata una forte ripresa delle richieste, ma soprattutto da parte di stranieri, cechi, ungheresi e polacchi, sempre meno gli italiani. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. La Camera di Commercio della Venezia Giulia ha presentato a Gorizia il master plan dell'offerta ricettiva proiettato verso l'evento Capitale della Cultura 2025. L'analisi di scenario vede Gorizia al di sotto delle aspettative in termini di posti letto, ma questo divario può trovare soluzione con le strutture territoriali isontine e regionali. Anche per l'hotel alla Transalpina, chiuso ormai da anni, le voci di una riapertura si rincorrono sempre più fitte. Il master plan della Camera di Commercio quantifica in 730 le strutture ricettive nell'ex provincia di Gorizia. Di queste l'80% sono extra alberghiere, quindi bed and breakfast, appartamenti e campeggi. Tra gli alberghi non ci sono 5 stelle e l'assessore regionale al turismo Bini sottolinea la necessità di lavorare sui punti deboli, tra questi il rapporto tra ricettività e offerta di mobilità territoriale. Il curatore della ricerca Antonello Fontanili di Union Trasporti. La capitale europea della cultura deve essere vista come un'opportunità per Gorizia e per il territorio circostante per migliorare anche l'accessibilità al territorio, perché dalle analisi è risultato anche che è difficile arrivare comunque a Gorizia dalle altre regioni italiane e anche dall'Europa. Quindi comunque bisogna investire per offrire un turismo anche alternativo, comunque un turismo naturale, un turismo green, perché comunque il territorio offre anche tutte queste grandi opportunità. Il report evidenzia che negli ultimi 9 anni la permanenza media è scesa da 5,4 a 4,2 notti, con i turisti italiani più fugaci rispetto agli stranieri. Le recensioni sono positive verso le esperienze vissute, ma piuttosto critiche verso i costi e l'accessibilità in termini di orari dei siti culturali, aperture e chiusure e spazi disponibili. Il presidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia, Antonio Paoletti. Ci sarà un flusso di turisti importante e bisogna capire, oltre a quello che abbiamo, la qualità di quello che abbiamo, l'offerta delle varie tipologie che abbiamo, la fruibilità, l'accessibilità, e per cui l'unicità di queste due città spezzate da questa rete, riunite negli anni che hanno vissuto un dopoguerra terribile, è motivo fondamentale per tutto il territorio e per tutta la regione. Gorizia, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Il triestino Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Italia Viva, è stato eletto segretario del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, l'organo di controllo e sorveglianza sull'operato di servizi segreti italiani, di cui Rosato aveva già fatto parte nella 16ª legislatura dal 2008 al 2013. Sulla sua pagina social Rosato ha commentato che se ne occuperà con impegno e dedizione. Incontro su sanità pubblica territoriale tra distretti e PNRR, ospedali di rete, medici di famiglia, pronto soccorso e nodi del personale sanitario. Dopo quasi 5 anni di guida da parte del centrodestra in Friuli Venezia Giulia, promosso dal Partito Democratico e coordinato dalla consigliera Maria Grazia Santoro, appuntamento a Pasian di Prato nella sala convegni dell'ENAIP alle 18.30. Approvato dalla Giunta Comunale di Udine il progetto definitivo per la pista ciclabile che da Piazzale Cella porta a Cargnacco. L'opera costerà 2 milioni, il tracciato è lungo 5 chilometri. La Giunta Comunale di Pordenone ha assegnato 540.000 euro per interventi di sostegno nelle scuole dell'infanzia, primarie di primo e secondo grado. La somma servirà a potenziare l'offerta formativa e didattica con una particolare attenzione a bambini disabili o che presentano difficoltà di apprendimento. Nel pomeriggio è convocato il Consiglio Comunale. All'ordine del giorno il bilancio di previsione 2023-2025. Apertura di seduta alle 16.30. Due camion di taniche contenenti liquido per spegnere gli incendi sono partiti dalla sede della Protezione Civile di Palmanova. Con questi sono diventati 30 i convogli spediti in Ucraina dalla Protezione Civile regionale, come ha specificato l'assessore regionale Riccardi. L'ultimo carico è stato donato da una società italiana e concentrato a Palmanova, che è diventata l'hub per gli aiuti destinati all'Ucraina. Il liquido 31.000 litri serve per spegnere gli incendi provocati dai bombardamenti. I carichi vengono trasportati fino ai centri di smistamento in Polonia, Romania e Slovacchia, a pochi chilometri dal confine, e poi distribuiti in Ucraina. In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Regione ha organizzato un incontro dedicato al tema dell'accessibilità e della fruibilità degli spazi pubblici, intitolato Accessibilità ai beni culturali, buone pratiche, progetti su beni sottoposti a tutela. Focus dell'iniziativa è il rapporto tra progetto per l'accessibilità e l'inclusione e beni culturali. Appuntamento a Udine, nella sede distaccata della soprintendenza di Palazzo Clabassi in via Zanon, alle 17.30. Prosegue la raccolta di fondi in supporto al servizio di prestito gratuito di ausili sanitari dell'Associazione De Banfield, dedicata al supporto per anziani fragili colpiti da demenza e Alzheimer e i familiari che se ne prendono cura. La raccolta è veicolata dal progetto La Borsa che Dona, che propone borse realizzate con foulard donati da benefattori e cucite a mano dalle volontarie dell'Emporio della Solidarietà. Ogni borsa rappresenta ore di sostegno a favore di una persona anziana fragile. Con 30 euro si potrà offrire un'ora di consulenza e sostegno domiciliare gratuito a una persona anziana fragile. Appunto, le borse sono disponibili a Trieste, in via a Casa Viola, in via Filzi, dalle 15 alle 18.30. È partita alle 22 di ieri sera dalle acciaierie di Cividale, che per forgiarla hanno impiegato un anno di tempo, la statua a forma di tallero a ricordo dell'imperatrice asburgica Maria Teresa d'Austria, arrivata stamattina a Trieste alle 3 di notte in piazza Ponte Rosso con un trasporto speciale. Ora si procederà con il montaggio con una gru nello spazio in cui sarà allestita, con un'operazione che richiederà circa un altro mese di lavoro. Ne abbiamo parlato con Anna Del Bianco, direttrice dell'ERPAC, l'ente regionale patrimonio culturale, che ha coordinato l'iniziativa. Il tallero è nato da un protocollo di intesa siglato nel luglio del 2018 tra ERPAC e Friuli Venezia Giulia, il Comitato per l'erezione di un monumento alla memoria di Maria Teresa d'Austria. È un percorso lungo che è passato attraverso anche un concorso di idee, una votazione popolare che si è svolta nel 2019, che ha selezionato appunto questa idea progettuale. Il tallero è una moneta di acciaio inox imponente, pensate che pesa 16 tonnellate, ha un diametro di circa 3,5 metri e ha una parte che reca l'effigie dell'imperatrice e l'altra invece riflettente. E di acciaio inox verrà collocato lateralmente a piazza Ponte Rosso, un luogo diciamo ideale perché considerato proprio il cuore nevralgico del borgo teresiano voluto da Maria Teresa. Misure imponenti, sarà possibile inserirlo diciamo così nella vita sociale, perché non so, ci si potrà sedere di fianco magari sopra la base, oppure no, sarà circondato da un recinto per non toccarlo? No, sarà assolutamente accessibile. La parte riflettente è stata pensata anche per consentire alle persone di ritrarsi, diciamo, vicino al tallero, potrà essere toccato. È stato costruito appositamente in modo tale che non crei possibili rischi. Verrà effettuato nella notte dalle 21 fino alle 8 di domani l'intervento notturno sul nodo di Portogruaro dell'autostrada A4, intervento rinviato nello scorso weekend per il maltempo. I lavori prevedono la chiusura della rampa d'uscita che dalla A4, per chi proviene da Trieste, conduce verso la A28. Non ci sarà quindi alcuna chiusura del tratto autostradale tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia. Le maestranze lavoreranno alternativamente per fasi successive sulle corsie di marcia e di sorpasso nei pressi dell'uscita di Portogruaro. Chi invece diretto verso Portogruaro e la A28 dovrà uscire alla Tisana e procedere lungo la viabilità ordinaria segnalata dai cartelli gialli, con rientro poi allo svincolo di Portogruaro. Come sempre, Autovie invita gli utenti della strada a informarsi attraverso i pannelli a messaggio variabile sul sito www.infoviaggiando.it con la app Info Viaggiando o telefonando al numero verde 800 99 6099. Anche quest'anno i vigili del fuoco del comando di Trieste hanno accompagnato l'ingresso di San Nicolò all'istituto Burlo Garofalo. Il santo è salito sull'autoscala dei pompieri e ha portato i regali ai piccoli decenti dell'oncoematologia, dell'ortopedia e del day hospital. Nell'occasione è stata effettuata anche la prova di accesso annuale dell'autoscala dei vigili del fuoco prevista dal piano d'emergenza del nosocomio, testando diverse innovazioni apportate per l'accesso dei soccorsi. Monfalcone ha ospitato il Festival dell'Intelligenza Artificiale, un'iniziativa promossa dal Liceo Buonarroti che ha istituito un indirizzo specifico su questa materia. Laboratori didattici con esperti per far approfondire agli studenti le nuove frontiere dell'informatica e delle tecnologie. Il primo festival della scienza dei dati e dell'intelligenza artificiale organizzato a Monfalcone per favorire lo sviluppo delle conoscenze logico-matematiche, delle capacità di analisi e di pensiero critico con la semantica, la visione artificiale e la realtà virtuale. Matteo Princi è al primo anno del liceo Scienza dei Dati e Intelligenza Artificiale di Monfalcone. Stiamo facendo le prime basi dell'informatica, foglio digitale, codice binario, eccetera, eccetera, per poi al quinto anno riuscire ad avere un indirizzo di studio che ci possa portare anche all'università con le basi fondamentali per sviluppare un'intelligenza artificiale, quali chatbot tipo Alexa o Google. Un evento organizzato dal Liceo Buonarroti che da quest'anno scolastico ha avviato il Liceo Scienza dei Dati e Intelligenza Artificiale, istituto superiore capofila di una rete di 30 licei in Italia. Il dirigente Vincenzo Caico. Lo scopo è quello di creare appunto una rete in cui ci si aiuta a vicenda per creare dei curricoli in questi due ambiti estremamente innovativi dell'informatica, la scienza dei dati e l'intelligenza artificiale. Però hanno una grande valenza interdisciplinare perché si collegano con la filosofia, con le neuroscienze e quant'altro. Per gli studenti un'opportunità per approfondire l'applicazione dell'intelligenza artificiale, cioè l'abilità di una macchina di mostrare capacità umane come il ragionamento, l'apprendimento, la pianificazione e la creatività. Monfalcone, Lucia Basso, TGR Friuli Venezia Giulia. Giornata di inaugurazione per la vetrina dell'ingegno nella restaurata Torre di Santa Maria adiacente a Palazzo Toriani a Udine, che ospita un percorso espositivo articolato in due sezioni, una permanente e una temporanea. Sul posto è presente anche l'allestimento di Impresa Futuro, che con un'innovativa esposizione multimediale offre un'esperienza di passato, presente e futuro dell'industria del territorio. L'evento inaugurale, intitolato La storia dell'industria incontra il suo futuro, prevede il taglio del nastro da parte di Confindustria alle 10.30 e l'apertura alla cittadinanza alle 17.30. In occasione del quarto anno di attività del PAF, Palazzo Arti Fumetto Friuli di Pordenone, è prevista l'apertura gratuita delle tre mostre in allestimento alle 10. Alle 11.30 è in programma la cerimonia di scoprimento della targa dedicata a Salvatore Oliva, appassionato e studioso del fumetto, tra gli ispiratori della nascita del PAF. Dalle 15 alle 18 spazio all'intrattenimento e alle attività per le famiglie con i laboratori per i più piccoli e le letture animate, le visite guidate alla mostra di Tony Wolf e il taglio della torta di compleanno del PAF. In chiusura l'asta solidale degli allestimenti scenografici, gigantografie, sagome e pannelli delle mostre passate alle 18.30. È incentrata sul passaggio all'età adulta la commedia Mendes e Brasso, già vincitrice del Premio Nazionale di Drammaturgia Contemporanea Luigi Candoni, Ora Zero. includendo versioni video fumettistiche, mantenendo sullo sfondo il riferimento alle figure di Don Chisciotte e Sancho Panza e alle loro mitiche e sconclusionate gesta. L'opera, diretta da Giuliano Bonanni, è intesa a stimolare la curiosità di un pubblico transgenerazionale e dare l'opportunità ad adolescenti e adulti di condividere il rito del teatro. A Udine, al Teatro Nuovo, alle 21. Tutto quello che volevo, storia di una sentenza, lo spettacolo di e con Cinzia Spanò, che sarà introdotto da Pina Rifiorati, presidente del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Udine. Sul palco una vicenda che invita ad avvicinarsi al tema della violenza sulle donne e più in generale a quello della parità di genere, oltre che a riflettere sui meccanismi della giustizia. A Udine, nell'Auditorium Zanon, alle 16.30. La compagnia di balletto classico del Russian Classical Ballet, composta da ballerini diplomati nelle più prestigiose scuole coreografiche di Mosca, San Pietroburgo, Novosibirsk e Perm, sarà protagonista dell'allestimento dello Schiaccianoci, balletto con le coreografie originali di Marius Petipa e le musiche di Piotr Ilyich Tchaikovsky. Sul palco la celebre storia invernale che immerge lo spettatore in un regno di fantasia sulle note di famosi passaggi musicali come il valzer dei fiori e la danza della fata confetto. Accorde nonce all'Auditorium Aldo Moro alle 21. Fonde sul palcoscenico musica e danza lo spettacolo Preludes, che propone musiche di Chopin, Debussy, Rachmaninoff e Bach, coreografie di Massimo Morricone. Sul palco Ambeta Toromani, Alessandro Macario, Amilcar Moret González, accompagnati dalla giovane pianista Costanza Principe, costumi di Luca Dell'Alpi, disegno luci di Claudio Schmidt, a Codroipo nel Teatro Benoit di Cecco alle 20.45. Il cartellone goriziano Il maestro e l'allievo vedrà protagonisti per il suo primo appuntamento Luca Trabucco, maestro di fama internazionale, e il giovane friulano Matteo Bevilacqua, per la rassegna che intende valorizzare i giovani professionisti garantendo loro visibilità nei più importanti palcoscenici della regione. A fianco dei due pianisti ci saranno i musicisti della Friuli Venezia Giulia Orchestra, in programma a pagine di Maurice Ravel e Claude Debussy. A Gorizia, al Teatro Verdi, alle 20.45, il concerto sarà preceduto da una relazione introduttiva sul programma musicale alle 18 nel ridotto Macedonio del Teatro. Si intitola Maestri della Tastiera, il concerto del giovane pluripremiato fisarmonicista serbo Stefan Projovic, che in programma include musiche di Bach, Prescobaldi e Torres. Projovic ha studiato a Lubiana e a Trieste con Corrado Rojas e ha frequentato numerosi seminari con fisarmonicisti di fama mondiale, ottenendo risultati di prestigio in numerosi concorsi. Al momento si dedica alla filologia esecutiva degli autori del primo barocco e alla musica contemporanea, presentando prime esecuzioni di autori italiani a Trieste al Conservatorio Tartini alle 20.30. La terza edizione della rassegna Udine and Jazz Winter propone lo spettacolo Profezie da un testo di Fabio Turchini, musiche di Claudio Cojanic, regia di Carlo Zoratti, in scena Fabiano Fantini, Marta Riservato, Pietro McDonald, Maria Teresa Bonera, Alessio Vellischig al pianoforte, Claudio Cojanic al contrabbasso, Alessio Turchet al violoncello, Antonino Pugliafito alle percussioni, Luca Grizzo. A Udine, al Teatro San Giorgio, alle 20. Si intitola Rosada, il tradizionale spettacolo contro le nuove povertà in carne, giunto alla nona edizione. Sul palco una pièce dinamica tra teatro e musica, nata da un'idea di Caraboa Teatro con la consulenza linguistica di Flavio Santi, il contributo di Bruno Pizzul, per indagare il nesso tra la parola e la necessità di essere tramandata, ragionando sui confini tra terra e lingua, appartenenza e distacco. Regia di Gioia Battista, sulla scena l'attore Nicola Ciaffoni e la cantante Elsa Martin. A Tolmezzo al Teatro Candoni alle 20.45. Passiamo allo sport, iniziando dalla pallacanestro. Il primo derby di campionato fra Gesteco Cividale e Old Wild West Udine si gioca nel turno infrasettimanale, palla 2 alle 20.45. Il Palasport cividalese fa registrare da qualche giorno il tutto esaurito e non mancano le ragioni per fare dell'incontro di stasera il match più atteso dagli appassionati di basket friulani. Anzitutto ci sono ragioni di classifica: Apu prima a pari punti con Pistoia, Aquile Cividale quinte a 4 lunghezze. Il roster di Bonicioli è sicuramente di primissimo livello, ma anche la squadra di Pillastrini si sta dimostrando all'altezza della A2. C'è già un precedente in Supercoppa dove vinse Udine 77-63, ma conta relativamente. C'è poi la ragione societaria: il presidente di Cividale, Mikalic, che aveva lasciato la APU per iniziare una nuova avventura, si ritrova a giocare in campionato contro la società in cui ha lavorato per anni. Si gioca a Cividale, dove la risposta del pubblico è stata davvero notevole fin dall'inizio del campionato di A2 e i giallo e blu sperano nella spinta del pubblico in questa sfida difficile. L'allenatore della Gestecco Pillastrini ricorda la forza dell'APU, che sono le sue parole. Si può permettere di lasciare fuori giocatori di altissimo livello gara dopo gara. Una partita, ha detto Pillastrini, da affrontare con umiltà e determinazione. Turno infrasettimanale anche per la Pallanuoto Trieste, che nell'ottava giornata della A1 ospita il Bogliasco, inizio alle 19.30. Obiettivi diversi per le due squadre. Trieste vuole confermare la zona playoff, attualmente nel gruppo delle seconde, mentre i Liguri sono nella parte bassa della classifica, dove sei squadre sono raggruppate in un solo punto. L'ex di turno è l'allenatore degli alabardati Daniele Bettini, alla guida del Bogliasco fino al 2018. È rivolto agli studenti dei licei sportivi e a quelli dei primi tre anni degli istituti statali di secondo grado del Friuli Venezia Giulia. È il raduno educativo intitolato I valori olimpici in convegno, inteso a promuovere tradizioni e valori dello sport tra i giovani. L'iniziativa, inclusa nel calendario eventi di EIOF 2023 Friuli Venezia Giulia, il Festival Olimpico della Gioventù Europea programmato a fine gennaio in regione, prevede focus sul Friuli Venezia Giulia come terra di campione di grandi eventi sportivi, oltre che sui valori morali dello sport, sul doping sportivo, l'alimentazione e l'intelligenza artificiale applicata allo sport. A Udine, all'Auditorium Comelli, in via Sabadini, dalle 9. 7:48 minuti e 35 secondi, apriamo la nostra rassegna stampa. Il titolo principale di prima pagina del Piccolo di Trieste recita: il rientro in fabbrica dei lavoratori Varzi. La richiami di prima pagina dedicati al mezzo mobile che consente di allineare i binari del tram di Upicina, alla scomparsa di Leopoldo Peratoner, conosciutissimo pediatra che ha lavorato al Burlo e anche all'ospedale di Pordenone. Le protezioni per le opere di Banksy esposte al Salone degli Incanti. In cronaca regionale, le manovre in consiglio per la possibile costituzione del terzo polo. In prima di cronaca, il programma dei festeggiamenti in piazza per Capodanno, che tornano dopo tre anni con musica dal vivo e fuochi d'artificio. Il caro bollette e l'apertura del Messaggero Veneto, che quantifica in rincari del 13% per il gas e per il 59% per l'elettricità. Fotonotizia per la riapertura degli impianti sciistici rimandati causa maltempo, e poi in taglio alto un reportage sul convegno dell'Osservatorio regionale antimafia, che ha quantificato un centinaio di beni confiscati in regione alla criminalità organizzata. Capocronaca: i lavori per la ciclabile cittadina di collegamento Udine Carniaco, di cui vi abbiamo dato conto prima. Spazio poi alla classifica dell'Agenzia Nazionale per Servizi Sanitari AGENAS, che pone l'ospedale cittadino al secondo posto per bypass coronarici. L'apertura del Gazzettino è per l'ambulatorio sperimentale di assistenza primaria organizzato dall'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale per fornire assistenza anche ai pazienti che non hanno medico di base, una situazione che solo a Sacile coinvolge già 1000 persone. Gli ambulatori saranno gestiti dagli studenti specializzandi in medicina generale. Ancora sanità poi con la protesta degli anestesisti a Udine, che hanno annunciato il blocco degli straordinari affinché queste prestazioni siano retribuite entro 2 mesi. Il Piccolo di Gorizia e Monfalcone apre con la presentazione del master plan della Camera di Commercio, alberghi e collegamenti, le criticità di Go 2025. Al tema sono dedicate 2 pagine, tra i richiami in prima la sentenza del TAR che dà ragione al Comune di Grado sul progetto di Zamparini per la Valle Cavarera, poi i lavori per l'escavo, prima dei dragaggi deve essere realizzato il vascone per i fanghi. Prima di cronaca di Gorizia sulla consegna dei lavori di riqualificazione del complesso ATER di Via Marega. In prima di Monfalcone una delibera di urbanistica che prevede la costruzione di una serie di palazzine in via Canova. Il femminicidio è avvenuto ieri a San Stino di Livenza, il tema della fotonotizia dell'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto, che ha in capo cronaca il progetto della sala convegni in piazza Maestri del Lavoro, da finanziare con fondi del PNRR, che dovrebbe essere pronto nel 2024. Spazio poi alla chiusura degli uffici comunali anche per venerdì in occasione del Ponte dell'Immacolata in chiave di risparmio energetico. Il Gazzettino di Pordenone informa sulla condanna a 4 anni di reclusione a carico di un 49enne romagnolo colpevole di aver indotto alla prostituzione una 14enne della provincia di Pordenone conosciuta online. Altro servizio, quello sulla norma per i permessi ai locali pubblici con allestimenti all'aperto in luoghi di competenza della Soprintendenza Belle Arti. Il tempo stimato per ogni pratica, come l'autorizzazione a posizionare un tavolino, si aggira sui 3 mesi. Altri appuntamenti in programma oggi: la mostra virtuale Le Signore dei Libri in Friuli dal 700 al 900 sarà oggi online sul sito dell'Università di Udine, proporrà 4 sezioni per esplorare le presenze femminili legate alla Biblioteca Florio dell'Ateneo Friulano. È una monografia bilingue in italiano e tedesco, quella scritta da Vanni Feresin e Luca Ulivo, intitolata Gradisca nell'età moderna, conflitti, dinamiche e relazioni di una realtà di confine, che sarà presentata dagli autori a Gradisca di Sonza, a Casa Maccari, alle 18. Roberto Settembre, già giudice a Genova ed estensore della sentenza della Corte d'Appello sulle violenze a Bolzaneto, presenterà il suo libro L'Avvocato Argentino a Trieste, all'antico Caffè San Marco, alle 18. Per l'occasione l'attore Maurizio Zacchigna reciterà alcuni brani tratti dal romanzo. Notturno triestino è il terzo libro di Pier Valerio Reinotti, già presidente del Tribunale di Trieste, che sarà presentato dall'autore a Trieste, la libreria Ubik, in galleria Tergesteo di Piazza Borsa, alle 18. Il libro Cioccolato rivelato di Rossana Bettini sarà presentato dall'autrice a Trieste al Circolo della Stampa di Corso Italia alle 17.30. Primo appuntamento per la rassegna dei concerti d'organo d'avvento, che proporrà l'esibizione dell'organista Elisabeth Zavadke a Pasian di Prato, nella chiesa parrocchiale di San Giacomo Apostolo, alle 20.45. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 la rubrica in friulano Ueo Favelin di, che parlerà della scarsa attrattività dei lavori di cura tra i giovani. E nelle cooperative del terzo settore c'è mancanza di personale, nonostante vi sia stato in questi anni uno sforzo coordinato tra enti e istituzioni per promuovere percorsi di formazione. Alle 11.20 andrà in onda Volo Radente, apriremo la puntata con un aggiornamento sul Covid-19, specificamente sui sintomi da long Covid. Nel collegamento in esterna conosceremo Soplaia, un'impresa locale che ha fatto della ristorazione e dell'industria agroalimentare la carta vincente. Parleremo infine del fenomeno della shrinkflation, ossia quella tendenza a ridurre la quantità effettiva di prodotto all'interno delle confezioni, mantenendone però invariato il prezzo. I programmi regionali tornano alle 13.30. Termina così la prima edizione del giornale radio regionale, redatta e condotta da Maria Spezia e Paolo Roncoletta. In redazione ha collaborato Valentina Beneruso, assistenza tecnica in regia di Federico Comar. Appuntamento alle 11.10 per l'edizione Flash, alle 12.30 per quella meridiana. Seguite le notizie sul nostro sito www.rainews.it. Grazie a tutti per la cortese attenzione. Dopo la sigla c'è l'Onda Verde. Buona mattinata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.